Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 16 giugno, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, sempre su Liberi Dentro ed Uradio TV. Io sono sempre Caterina Bombarda, la conduzione di questo programma, ma non sono mai sola perché qui con me c'è Antonella Cortese. Buongiorno. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, oggi parliamo di giustizia e tecnologia. Leggo la notizia da Il Sole 24 Ore a firma di Valentina Maglione. Il titolo è: alla scuola Sant'Anna di Pisa si allena l'algoritmo che prevede le sentenze. Sembra veramente qualcosa di futuristico, e invece si chiama giustizia predittiva, ed è questo un po' l'obiettivo a cui stanno lavorando più menti, con collaborazioni tra uffici e giudiziari e università, di usare l'intelligenza artificiale per aiutare la giustizia, creando una banca dati della giurisprudenza aperta non solo a tecnici ma anche ai cittadini, che potrebbero così consultarla per valutare le chance di successo e i tempi di contenzioso. È un progetto con ricadute anche in termini di accelerazione, quindi dei processi, e riduzioni delle liti e impulso a soluzioni concordate, e a cui questa scuola sta lavorando e prova ora a fare un passo scientifico e tecnologico in avanti. Spiega Giovanni Comandè, che è docente di diritto privato e comparato presso il Sant'Anna: stiamo annotando semanticamente una serie di decisioni negli ambiti del danno alla persona e dell'assegno di separazione e divorzio. È interessante, ma qual è lo scopo di tutto questo? Allora, lo scopo è allenare un algoritmo a annotare in modo automatico le decisioni in quelle materie del diritto, per poi estenderle alla tecnologia in altri ambiti. E tutto questo tramite l'annotazione semantica. Ma che cos'è l'annotazione semantica? Cioè, si tratta di individuare delle espressioni chiave che ritornano spesso, non solo come parole singole, ma proprio come frasi e formule, che così permettano di etichettare o una pronuncia, in modo che il sistema possa distinguere, ad esempio, un decreto ingiuntivo per l'affitto non pagato da un altro per alimenti non versati. Questo è l'obiettivo di costruire in qualche modo una base dati semanticamente annotata, ricercabile con un linguaggio comune e consultabile da tutti. In pratica tu dovresti andare a ricercare su internet, sulla base delle parole che conosci, e il formulario ti dovrebbe riportare a quello che tu stai cercando in maniera molto più semplice, senza consultare, senza avere delle pratiche molto molto più lunghe, insomma, come sono adesso. Si dovrebbe risparmiare tantissimo tempo in questo modo. Senti, ci sono progetti simili oppure questo è il primo in Italia e quindi siamo un po' dei pionieri? Beh, allora, nella stessa direzione c'è anche un progetto portato avanti a Brescia dalla Corte d'Appello, il Tribunale e l'Università, sotto la regia del presidente della Corte d'Appello, Claudio Castelli, che da sempre è sensibile ai temi di diritto e tecnologia. Sul sito dell'Università di Brescia trovate, quindi online, da novembre una piattaforma che raccoglie in due categorie, che sono economia e lavoro, e poi articolate in vari sottotitoli e titoli, le sentenze più significative degli uffici giudiziari di Brescia. Ci sono anche gli abstract delle pronunce, quindi non solo le massime per giuristi, ma anche elementi del caso concreto che rendono il messaggio comprensibile a tutti i cittadini. Ma si tratta di un'esperienza artigianale, ha chiarito lo stesso Castelli, e con un numero limitato ancora di pronunce. La base dati va creata a livello centrale con la banca dati nazionali di tutte le sentenze a cui tutti poi dovranno accedere, e questo è il senso del lavoro che si vuole poi andare a fare. Bene, bene, molto interessante. Senti, continuiamo con il rap. Continuiamo con il rap. Adesso Snoop Dogg e Dr. Dre, e ascoltiamo Still Dre. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's Still Dre Day. A.K. I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. If you ain't up on pain, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give still, you the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Rieccovi, bentornati, sempre su Liberi Dentro Edu Radio e TV. Con Antonella oggi parliamo di cucina, si potrebbe dire, di chef che vogliono recuperare la tradizione culinaria. Proprio così. Allora, la prima tappa è in Kenya, in Africa orientale, e il noto chef che fa cucina biologica si chiama Nyati Kabui. E il resto del tempo, quando non lo passa a cucinare, tiene conferenze e porta avanti molte campagne per la protezione di alcuni cibi di cui adesso vi parlerò. E Kabui intanto è nato nel 1968, 5 anni dopo l'indipendenza del Kenya, ed è cresciuto in una fattoria vicino al Monte Kenya, in un appezzamento di proprietà della propria famiglia, dove ha vissuto con la madre fino a 10 anni. Perché è importante questa sua storia? Perché ricorda che i raccolti e il bestiame bastavano a quel tempo a soddisfare i bisogni di tutta la famiglia. Avevano alberi da frutto, papaya, guava, aranci, limoni, insomma tutto quello che poteva soddisfare le esigenze di una famiglia. E, oggi vive nel North Carolina, e dove pratica l'agricoltura urbana e decanta i benefici del mangiare sano, non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Kenya. Infatti sostiene che sappiamo tanto poco di quello che consumiamo e che negli ultimi 20 anni per lui è stato veramente necessario lavorare su quello che lui chiama l'alfabetizzazione alimentare, che secondo lui deve essere un concetto da approfondire, che è un poco come l'alfabetizzazione scolastica, quindi bisogna ritornare alle radici, alle basi. E quindi allora mi interessa proprio sapere quali sono i cibi che lui preferisce. Allora, lui tiene tanti seminari, come ti dicevo, e ha contribuito a sviluppare degli orti comunitari dove si coltivano non solo lamponi, mirtilli, fichi, piante aromatiche in generale e verdure, ma anche altri cibi, come per esempio un cibo che si chiama Ngai Ngai, cioè le foglie più giovani della pianta dell'ibisco, e con i cui fiori si fanno degli infusi, dei tè che si possono bere caldi o freddi, anche con l'aggiunta di agrumi, e sono freschissimi d'estate. Ma anche le foglie di questo fiore non vanno sprecate, si possono usare come condimento. Infatti il Ngai Ngai esalta il sapore dei cereali e delle insalate ed è un'ottima base per le salse. E questa è una dimostrazione di come si può insaporire un piatto senza dover, per dire, ricorrere al glutammato, per fare un esempio, comunque a condimenti industriali. C'è anche un'altra chef, in questo caso è una signora, una donna, si chiama Fatmata Binta, che vive in Ghana, e fa notare che la grande diffusione di ingredienti, come appunto il glutammato che vi ho appena citato, e gli additivi artificiali, sta rendendo sempre più complicato creare i sapori africani tradizionali, perché sono sempre un po' contraffatti in realtà. E questa chef invece cosa propone? Allora, guarda, Binta racconta che in un recente viaggio nel nord del Ghana ha mangiato molti piatti insaporiti con i semi di nerè e sali prodotti localmente. Parla anche di un altro ingrediente che si chiama dawa dawa, ottenuto da un baccello dalla polpa morbida, gialla e dolce, che cresce sempre sugli alberi di nerè. E infatti dice, basta, l'Africa non è soltanto riso jollof, riferendosi appunto alla pietanza più diffusa in tutta l'Africa occidentale. E quando ha assaggiato per la prima volta il dawa dawa, dice di essere stata conquistata da questo gusto umami, con sentori di cioccolato fondente e cacao, deve essere veramente squisito. E spiega che dopo la raccolta dei baccelli, i semi sono fatti fermentare e poi essiccati. E nel 2012 lei ha creato la Fulani Kitchen, un ristorante itinerante con il quale vuole far conoscere la cucina e la cultura dei Peul, un po' gli abitanti di tutto il Ghana. E i Peul in effetti sono dei nomadi, è una comunità di nomadi più grande del mondo. E, nel corso della loro storia, infatti, hanno attraversato in lungo e largo l'Africa in cerca di pascoli per il loro bestiame. L'esperienza di Binta è che gli africani, anzi la speranza di Binta, è che gli africani comincino di nuovo a rivalutare le proprie origini e le proprie tradizioni. E chi lavora nella ristorazione a maggior ragione deve farlo. E se continuiamo a parlare a educare le persone, la domanda di prodotti industriali necessariamente diminuirà. E si tornerà quindi a mangiare sano, a riscoprire quello che già c'è e che non c'è bisogno di inventarsi, insomma. Bello, bellissima, bellissima storia che ci incoraggia anche noi a saperne di più sul cibo. E restiamo con Boubacar. Sì, restiamo con lui, restiamo con una canzone bellissima che si chiama Hona. E vi ricordo che Boubacar è il bluesman maliano e tra l'altro ha avuto una vita singolarissima perché ha avuto un momento in cui purtroppo è stato fuori dalle scene e ha cominciato a fare lavori diversi, tipo il sarto o altre cose. Poi improvvisamente l'hanno riscoperto ed è ritornato famoso come giustamente doveva succedere. Bentornati su Liberi Dentro Edu Radio. Siamo oggi ancora con Luca De Cembrotto, assegnista di ricerca e docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna. Buongiorno e bentornato. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, l'ultima volta abbiamo parlato delle possibilità di accesso allo studio universitario per le persone prive della libertà personale, ma vorrei capire oggi con te quale potrebbe essere il senso di investire in questa scelta di studio universitario quando si è in carcere. Perché devo studiare? Allora, io farei una distinzione, Caterina. Parlerei delle istituzioni e parlerei delle persone private della libertà. Iniziando dalle istituzioni, quello che penso, che è emerso insomma anche nel corso della volta scorsa, che sia un po' l'indirizzo, il motivo principale per cui promuovere questi tipi di percorsi e l'esperienza nel suo insieme dei poli universitari penitenziari, è il fatto che si stia promuovendo il diritto allo studio. Un diritto che questa volta te lo ricollego alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, per cui l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Questo perché? Perché si promuove la persona, la crescita della persona, del singolo, ma si promuove al contempo il progresso e la crescita dell'intera comunità. La comunità, in questo caso ristretta, ma è una comunità anche estesa, la comunità locale, la comunità nazionale in cui viviamo, no? Dove si cerca di promuovere una rottura tra l'idea che esista un dentro e un fuori. La persona uscirà e questa persona ha dei diritti, sarà un cittadino futuro, nuovamente libero, e quindi anche lui ha i diritti come tutti gli altri. Non, con la privazione della libertà non viene meno il diritto allo studio. E questo ha due aspetti. Da una parte, certamente, se esistono delle situazioni di marginalità sociale, queste attraverso lo studio in un qualche modo vengono affrontate. Dall'altra, appunto, c'è la crescita culturale della persona, che dice un pedagogista molto importante, proprio qui di Bologna, Bertolini, no? Servono ad affinare la capacità soggettiva di costruire senso e valore alle cose, no? Sollecitare la consapevolezza del proprio specifico e ineliminabile contributo nella costruzione di che cosa? Ma di quella che è la realtà che viviamo, e sviluppare la capacità di negoziare con gli altri. Okay? E tutto questo ha un riscontro nella vita della persona. Perché investire il proprio tempo negli studi universitari mentre si è nella privazione della libertà, mentre si è ristretti? Beh, sicuramente una delle motivazioni principali che tanti hanno, vivono, tanti portano, no, nei dialoghi con chi incontrano nel proprio percorso, è quello di impiegare il proprio tempo in un modo diverso, no? Un tempo vuoto, un tempo anche svilente, no? Lo si riempie con qualcosa. Questa probabilmente è una delle motivazioni prime. Poi diventa da riempitivo, diventa curiosità, una sfida personale e un modo per organizzare il proprio progetto di vita futuro. In qualche modo questo percorso può dare degli strumenti di comprensione critica e far rivedere la propria vita a diversi livelli. Penso che mi devo fermare qui. Grazie, e infatti ti chiedo di lanciare una canzone. Allora, la canzone che vi propongo è Under Pressure dei Queen. Pressure. people on streets. Rieccoci, bentornati. Siamo sempre con Luca De Cembrotto, professore a contratto presso il Dipartimento Scienze dell'Educazione, e stiamo parlando delle opportunità di studio universitario all'interno del carcere. E io mi riallaccio alla domanda che ti avevo fatto inizialmente. Il senso di investire in questa scelta di studio universitario è legata, secondo me, profondamente al tempo. In carcere c'è sempre questo problema, il tempo che scorre lento, da gestire, e lo studio perciò potrebbe essere in qualche modo per alcuni una via di fuga, ma ci sono anche delle opportunità concrete, cioè nel senso, studio soltanto per riempire questo famoso tempo, oppure alla fine poi studiando mi ritrovo con qualcosina in mano? Ma guarda, sicuramente mi rilascio a quello che stavo dicendo prima, c'è un'idea di riprendere qualcosa che si è abbandonato nel passato e di trovare una via per un riscatto personale. Questo è un elemento, secondo me, molto importante di questo percorso. A questo noi possiamo aggiungere che cosa? Ma che nel percorso universitario, ovviamente, si acquisiscono delle competenze e delle conoscenze che sono specifiche, altamente qualificate, e che potrebbero dare vita nel futuro, una volta che si è usciti dal carcere, dall'istituzione detentiva, ma anche a volte nell'istituzione stessa, a dei percorsi lavorativi inaspettati prima della detenzione. A questo io aggiungerei un particolare, che è quello delle competenze trasversali. Cioè, le competenze trasversali vengono certamente aumentate durante i propri studi, e queste non è che hanno un riscontro esclusivamente all'interno di un settore lavorativo, possono essere affinate per tutti gli aspetti della vita, e questo fa rientrare anche la persona detenuta all'interno di quello che è il concetto della formazione permanente, cioè ci si forma perché si cresce certamente professionalmente, ma anche a livello personale. E in due minuti, per chi ci ascolta anche fra la cittadinanza, apriamo una finestra sul mondo. Com'è la situazione degli studi universitari sostenuti in carcere anche negli altri paesi del mondo? Allora, brevissimamente, c'è da dire che l'Italia questa volta è un po' un aprifila nel panorama europeo, seguita da esperienze molto più limitate, anche se esistono in Francia, in Inghilterra, in Belgio. In Italia però abbiamo una rete nazionale molto estesa e molto ricca, che ha un unico analogo, che si trova in Argentina, quindi in Sud America, dove le esperienze dei centri universitari esistono in diversi paesi come l'Uruguay, il Cile, ma in particolare in Argentina ritrova una strutturazione simile. Qui in Italia abbiamo la CNUP, la conferenza nazionale che abbiamo citato anche la volta scorsa. Ecco, in Argentina si trova il tavolo interuniversitario nazionale sull'università in carcere. E le similitudini tra le nostre due esperienze sono tante. Spero di riuscirtene a raccontare un'altra volta. Lo faremo sicuramente, Luca, e ti chiedo di lanciare l'ultima canzone di oggi. L'ultima canzone è Combat Pop dello Stato Sociale. Genere, ragazzi, genere! E questo è Combat Pop. Oh, era Ben ritrovati, abbiamo appena ascoltato la voce di Luca De Cembrotto, professore universitario dell'Università di Bologna, facoltà in scienze dell'educazione. Noi ci ridiamo appuntamento tra poco con le nostre rubriche, oggi abbiamo l'equipe sanitaria del carcere, quindi seguiteci. Se ci state seguendo su Lepida TV tra poco oppure su Teletricolore alle ore 17 e sempre sulla mattina sulla radio alle ore 6.30. Vi ricordo di iscriverci, redazione Liberi Dentro, @gmail.com e un ringraziamento per speciale ad Antonella Cortese, sempre qui con me in redazione, e a Pasquale Pitaniello. Buona giornata a tutte e tutti e un saluto da noi. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.